190. Ciambelline. Anche questo piatto, se non si vede manipolare, è difficile che riesca bene. Mi proverò a descrivervelo, ma non garantisco di farmi capire. A me queste ciambelline furono insegnate col nome di bignè, ma la loro forma mi suggerisce quello più proprio di ciambelline e per tali ve le offro. Mettete al fuoco in una cazzaruola grammi 180 di acqua, un pezzetto di burro quanto una grossa noce, due cucchiaini di zucchero e un pizzico di sale. Quando il liquido bolle, stemperateci grammi 120 di farina, gettandola tutta a un tratto onde non si formino bozzoli e dimenate subito col mestolo. Levatela presto dal fuoco e mentre è così a bollore, scocciate nella medesima un uovo e mescolate forte finché sia bene incorporato. Poi ad intervalli, quando il composto è ghiaccio, aggiungete altre due uova, lavorando sempre molto col mestolo, finché sia ben mantecato. E ciò si conosce dall'azione del mestolo stesso, il quale, nei vuoti che lascia, si tira dietro un sottil velo di pasta. Datele l'odore di vaniglia e preparate sulla spianatoia una certa quantità di farina sulla quale verserete la detta pasta. Allora cominciate a palparla con le mani imbrattate nella stessa farina e avvoltolatevela entro, in modo che della farina se ne appropri tanta da rendersi maneggevole, ma però morbida alquanto. Dividete questo pastone in 16 o 18 parti, formando tante pallottole che riusciranno grosse poco più di una noce. Ad ognuna di queste pallottole fate un buco in mezzo premendole con la punta di un dito contro la spianatoia e girandole sopra se stesse. Rivoltatele e fate altrettanto dalla parte opposta onde il buco diventi largo ed aggraziato. Così queste pallottole prenderanno la forma di ciambelline. Ora mettete al fuoco un vaso d'acqua di bocca larga e quando l'acqua sarà ben calda ma non bollente, gettatevi le ciambelline a 3 o 4 per volta. Se si attaccano al fondo, sollevatele leggermente con la mestola forata, voltatele e allorché vengono a galla, levatele asciutte e ponetele sopra un pannolino. Poi con la punta di un coltello fate ad ognuna giro giro, tanto dalla parte esterna che interna, un'incisione o anche due ad una certa distanza perché possano rigonfiar meglio. In questo stato potrete lasciarle anche per delle ore se vi fa comodo. Friggetele con molto unto, lardo o d'olio che sia, a fuoco lento, dimenando spesso la padella, se saranno venute bene, le vedrete crescere a un volume straordinario, restando asciutte, calde ancora ma non bollenti, spolverizzatele di zucchero a velo e servitele, augurandosi lo scrivente che esse, per la loro bontà ed eleganza di forma, siano gustate da bocche gentili e da belle e giovani signore, e così sia.